cielo azzurro e il sol. Ogni cuor comincia a palpitar, le gambe han voglia già di pedalar. Anche noi che si farà, pronti o là si partirà, sulla bici, bici, bici, bicicletta, come bello passeggiar. Girare per l'Italia, per paesi e per città, sulla bici, bici, bici, bicicletta, ne nevo di qua e di là. E intanto in fretta, questo cuore batterà. Si va, chi mai ci fermerà? Basta un bacio ed uno sguardo per raggiungere il traguardo dell'amore. Vieni sulla bici, bici, bici, bicicletta, come bello passeggiare. Girare per l'Italia, per paesi e per città. Uno sguardo per raggiungere il traguardo dell'amore. Vieni sulla bici, bici, bici, bicicletta, come bello passeggiare. Girare per l'Italia, per paesi e per città.